Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Buon fine serata se ci ascoltate in replica alle 20.45. Insomma, buona giornata, diciamo così complessivamente. Allora, la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Il mio blog è Guardie o Ladri. Lo trovate sulla home page del Sole 24 Ore. Ieri abbiamo parlato di tassisti e di noleggiatori. Lo abbiamo fatto perché dopo una puntata che ho dedicato alcune settimane fa alle novità contenute nel disegno di legge mille proroghe sulla liberalizzazione del servizio, sono arrivate moltissime mail, alcune a favore, alcune contro, alcune con insulti, addirittura dei blog dei tassisti hanno beneficiato il sottoscritto e la radio di una presenza appunto sui loro blog, dove sono partite altre contumelie. Tutto questo perché alcuni tassisti si sono sentiti lesi nei loro diritti, avendo dato io voce ad Artusa, che è l'associazione, rappresenta l'Associazione Nazionale delle Imprese di Trasporto di Viaggiatori, e come dire, spiegava le sue ragioni contro questo disegno di legge che metterebbe gli autonoleggiatori in gravissima difficoltà, in gravissima crisi. Tra le persone che hanno addirittura detto che se ci fosse stato Santalmassi tutto ciò non sarebbe successo, sono qui per smentirlo, c'è il radioascoltatore Costantino Poletti. Buongiorno Poletti. Buongiorno. Ha visto che anche sotto la direzione di Fabi la nostra radio è libera, io l'ho chiamata? Sì, però vabbè, la battuta su Santalmassi era gratuita, nel senso che vabbè, ho detto tanto, la verità, non sapevo neanche come avreste letto. Guardi che io sono qui per dialogare amichevolmente con lei, lo so che è una battuta, ma io l'ho chiamata apposta. Ah, va bene. Allora, dica cosa non la convince di questo disegno di legge che metterebbe in difficoltà tassisti. Ha tutto, come dire, lo spazio che vuole, prego. No, ma non è tanto che mette in difficoltà noi. Mm. Il problema era che questa difesa del noleggiatore nei confronti della nostra lobby non ci sta, perché noi cerchiamo di lavorare senza pestare i piedi agli altri, comunque facendo rispettare quelle che sono le regole. Ecco, ma tanto per la cronaca, fanno parte di una legge che io mi sono informato, che è la legge 21, ancora del 15 gennaio 92. Ecco, ma lei non può pretendere che i noleggiatori non difendano la propria categoria, no? È come se io chiedessi a lei di non difendere i tassisti o lei chiedesse a me di non difendere i giornalisti. Ognuno fa il suo mestiere, no? Sì, però siccome ho sentito dire, adesso mi corregga se sbaglio, delle battute tipo che loro fanno un servizio sociale, che accompagnano gli anziani agli ospedali, cioè può darsi che ci sia qualche noleggiatore che porta l'anziano all'ospedale, però noi sappiamo per certo che se lei non spende almeno 50 euro non la fanno neanche sedere sulle loro macchine. Ecco, non è che pagare, non è che un taxi costi molto di meno, ci sono dei prezzi che secondo me sono folli rispetto a tutto il resto d'Europa, però noi abbiamo anche oggi chiamato un interlocutore che rappresenta gli autonoleggiatori, questa volta gli autonoleggiatori romani, che obiettivamente sono nell'occhio del ciclone, perché come dire, anche loro, così come i colleghi milanesi, torinesi, napoletani e quant'altro, con questo disegno di legge non è che vanno proprio a nozze, e quindi sentiamo la voce di Massimiliano Giogo, che è il portavoce dell'ANAR, l'Associazione Nazionale Autonoleggiatore Romani. Buongiorno Giogo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io ieri ho terminato il mio intervento, e tanto dico ai nostri radioascoltatori, agli amici tassisti e noleggiatori, non sarà l'ultimo che dedicherò, dicendo: mi sembra tanto una guerra tra poveri che vi state combattendo. Dico bene o dico male, o mi insulterete anche per questo, Giogo? No, guardi, io intanto mi scusi se la correggo, ma volevo dire che noi comunque siamo a favore di questa cosa. Oh, bene, opinioni divergenti, bene. Sì, ma noi, guardi, allora, la nostra associazione nasce proprio come Associazione Nazionale Autonoleggiatori Romani. Sì. Fondamentalmente noi riteniamo opportuno difendere quello che è la legalità nel rispetto delle leggi. Ecco, delle, ma perché la difendete? Gioco, perché difendete questo provvedimento? Lo difendiamo perché tenta in qualche modo di ripristinare quello che è il principio di territorialità nel noleggio con conducente. Ok. Allora, io sono d'accordo sul fatto che probabilmente questa è stata una cosa che si è sviluppata soprattutto su Roma, questa dei noleggiatori, sì, che operano su altri comuni e non su quello dove hanno ottenuto la licenza. Perché? Perché a Roma si è verificata questa cosa. Fondamentalmente ci sono circa 20.000 passaggi nella ZTL, questo è tutto documentato. Zona traffico limitato, zona traffico limitato, di autonoleggiatori che provengono apparentemente da altri comuni. Ecco, ma poi rimangono a Roma oppure se ne tornano? Perché il punto è questo: se portano clienti, liberi di farlo, se poi rimangono lì e rubano clienti e tassisti, come i tassisti dicono, beh, questo non va bene. Sì, sì, sì. No, no, certo, il problema è che queste persone non provengono da altri comuni, questi sono cittadini romani che hanno ottenuto l'autorizzazione nei comuni più disparati d'Italia e ritengono giusto, secondo loro, operare sul territorio di Roma. Ecco, mi scusi se io le interrompo un secondo, però il suo collega Artusa, che rappresenta un'altra associazione, dice che quando entreranno in vigore queste norme, semmai entreranno in vigore con tanto di regolamenti, poi sappiamo in Italia le cose come vanno, dopo 25 anni forse entreranno in vigore le norme completamente, neppure un noleggiatore di Fiano Romano potrà entrare a Roma, probabilmente neppure uno di Bucinasco potrà entrare a Milano, uno di Chivasso potrà entrare a Torino. È così o non è così? Guardi, no, non è così. Diciamo che queste modifiche alla legge 21 non fanno altro che inserire delle sanzioni su una legge già esistente, che limita già territorialmente ogni autonoleggiatore. Questo non significa che un noleggiatore di Torino non può venire a Roma. Se lui opera con il suo cliente partendo da Torino per andare ovunque il cliente voglia, lui è liberissimo di farlo. Ok, la interrompo un attimo perché noi abbiamo Francesco Artusa collegato con noi. Buongiorno Artusa. Buongiorno. Allora, vi dividete anche fra di voi. Voi la pensate in un modo, gli autonoleggiatori romani la pensano in un altro. A lei la parola. Dividersi è una parola grossa, in quanto tutte le associazioni, diciamo il 90-95% degli autonoleggiatori, sono rappresentati per quanto riguarda la posizione contraria. L'ANAR fa eccezione, vi siamo in democrazia, viva la democrazia. Certamente, sono d'accordo con altro, lei. Esatto, dovrebbero spiegare loro perché, visto che si è pronunciata, la Camera ha sollevato dubbi di costituzionalità come l'avvocato Viciconte, l'antitrust ha detto chiaramente che va contro le norme comunitarie, la Comunità Europea sta annicchiando, cioè praticamente tutti sono contrari a questa norma dal punto di vista legale, organi, istituzioni, tranne chi la sostiene in Parlamento, cioè quei 3-4 persone che conosciamo, e l'ANAR. Ok, allora è chiarissimo Artusa, e quindi io ridò la parola a Giogo, che rappresenta appunto l'ANAR, però vorrei terminare poi con Costantino Poletti, il nostro amico tassista milanese. Prego Giogo. Sì. No, io a proposito della Comunità Europea volevo citare degli articoli della direttiva 2006-123 della Comunità Europea, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre del 2006, che ovviamente parliamo della direttiva Bolkestein, che è quella direttiva sulle liberalizzazioni, che esclude in 3 articoli, il 17, il 21 e nei campi di applicazione, i servizi, lo leggo testualmente, sì. I servizi di trasporto, compresi i trasporti urbani, i taxi e le ambulanze, nonché i servizi portuali, sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva. Ok, allora la situazione, per quanto vi riguarda, è chiara. Riassumiamo un secondo per i nostri radioascoltatori: questo provvedimento in discussione in questo momento in Parlamento prevederebbe delle norme molto molto restrittive per gli autonoleggiatori, i quali si vedrebbero, come abbiamo sentito da Artusa, in buona sostanza cacciati dal mercato e anche in difficoltà economiche. Lo stesso Artusa per primo riconosce però, insieme agli stessi tassisti, che c'è bisogno di regolamentare bene la materia. Artusa dice: è il prezzo gravissimo che paghiamo ad Alemanno e la sua campagna elettorale giocata sui tassisti, sulle licenze, su questa lobby fortissima che lo ha eletto, probabilmente ha contribuito a eleggerlo sindaco, e addirittura ci sono dei rappresentanti in consiglio comunale. Gli autonoleggiatori dicono: ma no, tutto sommato si tratta soltanto di alcuni accorgimenti, possiamo starci. I tassisti, e invece i tassisti questa norma proprio non piace. Ne abbiamo sentito uno ieri, Romano. Stiamo concludendo oggi questa chiacchierata, e non sarà l'ultima, lo ripeto, con un tassista milanese, Costantino Poletti. Allora, a lei la parola definitiva. Che cosa bisognerebbe fare per cercare di portare un po' di pace in questa guerra tra poveri? Fondamentalmente io sono contrario anch'io per i noleggiatori. Mi sembra esagerato l'emendamento di cui ho sentito parlare con tutte queste cose che ha detto. Io vorrei solo che fossero rispettate le leggi che, come le dicevo, esistono dal 92. Perché purtroppo i noleggiatori... Lei sa cosa è successo a Milano recentemente? No, lo dica lei. Ecco, a Milano c'è stato un presidio di alcuni miei colleghi taxi di piazza che hanno preteso l'eliminazione o comunque il controllo di questi noleggiatori che adescano i clienti. E cosa hanno fatto? Una cosa fisica: hanno allungato la fila dei taxi banchi e l'hanno portata fin davanti alle porte, e facendo in modo che questi noleggiatori, adesso io non so di quale categoria siano, se siano favorevoli o no, praticamente adescano i clienti giocando sull'equivoco, facendo credere ai clienti che noi siamo disonesti e loro portano i clienti dove vogliono. Ecco, allora, questo dà fastidio. Le posizioni sono chiarissime, Poletti, ripeto, ancora una volta, ci torneremo, mi dica una battuta finale però, Poletti, ma perché questa guerra non la fate contro gli abusivi? A Roma, ecco, a Napoli, a Milano, a Palermo, perché avete paura? Perché avete paura? Si comporta come un abusivo, capisce? No, ma io sto parlando degli abusivi che molto spesso poi sono anche dei criminali incalliti o comunque sono delle persone che non provengono propriamente da Beverly Hills piuttosto che hanno studiato la Sorbonne, ma invece sono delle persone delinquenziali molto vicine alla criminalità. Allora perché non fate una bella guerra contro gli abusivi innanzitutto? Perché io personalmente le dico la verità, io pretenderei che le autorità, cioè io non so, io sono una persona, cioè io faccio il tassista, però non posso andare a litigare o mettere le mani addosso a un abusivo. Però con gli autonoleggiatori, ci litigate. Ma io personalmente no, cioè anche io non dico lei per carità di Dio, dico le categorie. Secondo me ci sono molte cose da rivedere e da risentire. Siamo qui per questo, lo saremo anche nei prossimi giorni, torneremo su questo argomento perché interessa tutta Italia, perché i tassisti, voglio dire, sono una categoria benemerita, così come i noleggiatori che servono tutta Italia, svolgono un servizio pubblico, quindi ci torneremo. Grazie regia Filippo Aureggi, grazie in studio Laura Faggin e a Francesco Di Bruno, e Roberto Calullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.